Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Angelo, lei a fine degli anni Ottanta è stato comandante della compagnia di Corleone. Esattamente, sì. Da giovanissimo capitano all'età di 28 anni, passando da una realtà come metropolitana come Roma a al cuore di Cosa Nostra. Lei di dov'è? Di origine di dov'è lei? Io sono pugliese, quindi in qualche modo ho anche respirato aria di sottocultura criminale. Per me è stato inizialmente proprio complesso capire le loro movenze, perché la caserma di Corleone dà su questa piazza principale con due bar di fronte che erano praticamente il luogo di ritrovo degli uomini più vicini all'epoca a Totorina e ai suoi nipoti che di fatto erano i reggenti della famiglia di Corleone, cioè i fratelli Grizzassi. Quindi lei osservava come un set cinematografico. E quindi ho passato letteralmente il primo mese della mia permanenza a Corleone ad osservarli da dietro le finestre e a fotografarli, ma la cosa interessante secondo me che avevo colto subito che ovviamente l'obiettivo primario della Cosa Nostra per eccellenza, che erano i corleonesi, non era ovviamente l'arricchimento, ma era il potere, ed era il potere che si manifestava soprattutto attraverso il possedimento terriero. Tant'è vero che il primo investimento mafioso fatto da Rina fu la RISA S.P.A., dove RISA stava per Rina Salvatore, e dove nella compagine societaria c'erano in realtà una serie di professionisti palermitani, che tra cui Giuseppe Mandalari, personaggi che poi si sarebbero riemersi in diverse indagini. Lei fino a che anno, diciamo, ha tenuto l'osservatorio attento su questa realtà? Beh, diciamo che l'osservatorio, poi da un osservatorio fotografico, si è trasformato in un osservatorio audio, perché con Gianni Falcone avevamo piazzato le prime microspie, quindi il codice nuovo era appena entrato in vigore nel 89, le prime microspie a casa delle sorelle di Luca Bagarella, e per la prima volta sentivamo finalmente, oltre la voce dei pentiti, sentivamo per la prima volta parlare di Rina.